Va ora in onda Piazza Alta, un programma di e con Enzo e Marcello. Alla parte tecnica Simone. Une. 8 aprile 2016, Piazza Alta, Radio F. Buon compleanno a Santina, mi è venuta così. Santina compie gli anni, una bambina, la bambina Santina, auguri. Auguri a Santina, ma soprattutto benvenuti a tutti quanti a questa splendida trasmissione, sì, l'inizio del weekend di Radio F. Su Radio F e su Piazza Alta. Buon ascolto. Dalle F frequenze. E allora andiamo, guarda, la prima canzone, sì. Enzo, Marcello. Un inizio spumeggiato. Troppo. Tra l'altro voglio dare un indizio. Avete sentito dei bip bip durante la sigla? Ecco, dopo capirete secondo perché. Voi che cosa potrebbe essere? Che cosa sta succedendo? Provate. Un primo brano da paura. Incredibile. Ciao Simone. Il disco Errore. Close my la puoi disannunciare anche te se vuoi, anche se non ce l'hai davanti. Erano U2 con Sunday Bloody Sunday. Che soddisfazione! Per il vostro e il nostro piacere. Quanto mi piace fare il DJ degli anche se anni non lo sai. Ah, se 20 o 30. Allora, Radio F, come dicevamo, inizia il grandissimo weekend di Radio F. Ricordiamo velocemente. Noi siamo veramente entusiasti di questo fatto che noi siamo prodromi o propedeutici a questo fine settimana. Dopo due parole così, salutiamo la Crusca e ce ne andiamo. Cosa succede? Tra l'altro che fa anche bene. Cosa? A tutti gli altri alimenti. Ma una volta faremo un programma anche su questo. Allora, come possono ascoltarci? Ma lo sanno perché ci stanno ascoltando. Altrimenti non sarebbero qui. In FM su 89.2. In streaming su www.radiof.it. Oppure app, come per le app, scrivono Radio F, scaricano l'app ed ecco che il gioco è fatto. Ma possono fare anche altre cose. Tantissimo. Chi ci sta ascoltando, voi a casa, perché la radio, il programma lo fate voi. Quindi veniteci ad aprire. Perché ancora siamo fuori. Mandando un messaggio al 392-4900-800 possono dirci cosa pensano di te, solo brutte cose, ecco, e di me. Scusa, io sono un po' retro, un po' fatto male, chiaramente. Sei finito peggio, ma il 6482-76 è il numero a cui sono più legato. La nostra infanzia. Tormentato la mia infanzia perché non riuscivo mai a fare una dedica richiesta. No, te la facevi la dedica, è che non eri mai contraccambiato. Sotto mentite spoglie, è vero. Ma... Da un anonimo per un'amica dicendo questo però è... ti ho visto da lontano, ti ho visto ieri per la strada. Ok, e stasera, ma per i più tecnologici, scusami, il profilo Facebook di Radio F e di Piazza Alta, e il canale YouTube di Piazza Alta, e chi più e ne via, ha via. Più ne metta. Ma stasera ci stiamo organizzando per le comunicazioni interstellari, però c'è qualche interferenza. Come dicevo prima abbiamo sentito durante la sigla dei bip bip che dovrebbero suggerire ai nostri amici che ci ascoltano a casa quella che potrebbe essere l'argomento della serata. Anzi, voglio dare ancora un altro indizio. Abbiamo già pubblicato sulla pagina Facebook di Radio F una foto che ritrae noi ai voi e i nostri ospiti, e la foto potrebbe essere già un indizio. Ma allora facciamo una cosa. Esatto. Presentiamo i nostri ospiti. Diamogli il benvenuto. Buonasera a Marcello Fatucchi. Ciao. Buonasera. E buonasera a Marco Sanlese. Ciao. Buonasera. Ciao. Con loro parleremo di una cosa bellissima che però non vogliamo sciupare. Ecco, è un evento... Diciamo soltanto che sono chiaramente rappresentanti di Foiano Fotografia, di questo evento che già da tempo dà lustro al paese, ma quest'anno si rinnova e impegna praticamente tutto il paese in un'iniziativa che durerà mesi. Perché l'ingegno umano non ha mai confini. Non ha limiti. Ma però ce lo facciamo raccontare da loro fra un po'. Intanto ascoltiamo il secondo brano. Simpatici, che sarà sicuramente all'altezza del primo. Speriamo. Thank you. ma noi siamo più forti di mille olocausti. Noi restiamo nascosti finché ci sparano e che il vento ci sposti o il fuoco bruci i miei ricordi. Li dedico a te. Dalla vicina Umbria, da Foligno, il trio Caro Mio Marci si chiama Il Geometra. Incredibile. E la canzone, il brano che abbiamo ascoltato, la canzone, faccio, quando faccio così sono peggio. Il brano che abbiamo ascoltato è Restiamo Nascosti, che è meglio, tra l'altro, e per quanto trio, ci riguarda. Per un trio non è nemmeno semplice. Allora, cari amici vicini e lontani, stasera parliamo di un evento eccezionale che si terrà a novembre, ma in realtà inizierà molto prima. Ed ecco perché siamo qui. Marci, vuoi dire qualcosa? No, volevo aggiungere una cavolata a quello che avevi detto te, ma ormai è passata. Allora, Foiano Fotografia, questo evento così importante che porta lustro a Foiano in ogni dove, perché ricordiamo brevemente che era, chiama a sé le opere di grandi fotografi internazionali, quest'anno si rinnova e parte di rincorsa perché ha, diciamo, ad opera dei suoi coordinatori, diciamo, di coloro che sono dentro, tirato fuori un'iniziativa che a me ha stupito molto e che adesso andiamo ad ascoltare dalle loro vive voci, perché sia tecnicamente che per quello che vuole rappresentare, per me è di un'innovazione estrema. A questo punto chiudo la mia presentazione. Allora, siamo qui, come dicevamo, con Marcello Fatucchi e Marco Sallese, che sono gli ideatori sia di questa rassegna, ma dell'idea di cui parliamo stasera in special modo. Allora, iniziamo con Marco. Buonasera di nuovo. Buonasera Marco. Innanzitutto, di che cosa stiamo parlando? Cioè, l'iniziativa che andrà a trovare i fondi per sviluppare, per fare Foiano Fotografia, di che cosa si tratta? Iniziamo da qui. In inglese si chiama crowdfunding, è un termine che magari non tutti conoscono, quindi nell'essenza è un finanziamento sociale, quindi le persone possono finanziare un evento, un'attività, quello che è. Nel nostro caso è il Foiano Fotografia, che si è sempre tenuto a novembre, sì. Però abbiamo voluto aprirlo, diciamo, sia nelle tempistiche che anche come modalità a tutta la popolazione. Quindi abbiamo delineato una serie di eventi che si apriranno a luglio e poi fino a novembre. Quello che è in copertina per noi e che serve per finanziare tutto il progetto è la stampa di uno striscione lungo 180 metri che viene esposto lungo le mura castellane di Foiano Drachiana per 5 mesi, da luglio fino a novembre. Io ritengo questa cosa geniale. E detta così sembrerebbe anche, tra l'altro, semplice. No, appunto, bravo, tra pochi secondi cercheremo anche di mettere una foto di quello che è progetto grafico di quello che sarà poi realmente lo striscione. Però, sulle mura. Pensiamo a Foiano, alle mura castellane di Foiano, circondate da 180 metri con 500 fotografie. 500 fotografie. Quindi ogni fotografia sarà di dimensione 70x50, quindi belle generose, insomma. Esatto. E siccome, diciamo, queste fotografie saranno ad appannaggio di chiunque ne voglia far parte, dietro un minimo di donazione che poi andremo un po' a specificare, potrebbe essere anche un evento non solo unico, ma che tendenzialmente possa rimanere nella memoria di ognuno. Esatto, sarà un grandissimo evento collettivo, almeno speriamo che sia proprio uno dei più grandi eventi collettivi del paese, perché è la possibilità di partecipare in prima persona in questa serie di fotografie che poi rimangono appese così a lungo, insomma, dà lustro sia al paese e poi molto collettivo. Scusami Marcello, spieghiamo meglio proprio tecnicamente di cosa si tratta. Chi vuole dare un contributo per Foiano Fotografia, che sarà la rassegna fotografica internazionale che si terrà a novembre a Foiano della Chiana, lo potrà fare partecipando a questa prima iniziativa, che è una vera e propria collaborazione, una vera e propria raccolta fondi. Io, facciamo un esempio, privato, decido di contribuire, quindi vado sull'apposito sito, di cui trovate tutto quanto sulla vostra pagina Facebook. Basta seguire noi sulla pagina Foiano Fotografia su Facebook, ci sono tutte le informazioni. E a quel punto decido quanto donare e cosa avrò in cambio. Marcello, dici un po' i vari tagli, oppure diciamo quello che può essere su questo mega pannellone. Ma il mega pannellone nasce da un'idea che io ho avuto, però insomma non è... Bravo, te la bisogna dire le cose quando sì, non è bravo. No. Perché ti è venuta in mente una cosa così? Mi è venuta in mente perché bisognava trovare dei soldi per finanziare Foiano Fotografia. E l'unica idea che mi è venuta in mente è stata questa, perché io tutti i giorni vado a camminare, passo tutti i giorni di lì. Ah, vedevo questi muri. Sfruttarli. Bisogna sfruttarli. Ah, dico, quando cominci si fa una bella foto. Appena lo dissi a Valerio, insomma, poi io mi preso anche per matto, però. Insomma, gli dissi, grazie, qui se noi si riesce a coprirla tutta con le foto e si vende gli spazi, ora vendere è una parola pubblica, però diciamo, sì, raccogliere fondi dando uno spazio, dico, secondo me ci si fa a pagare questo e a finanziare poi. E allora Enzo, la cosa che mi piace molto di questa iniziativa è che nell'epoca dei social, questa è un'iniziativa social, cioè praticamente... Come dici social? Social. Cerco di dargli proprio l'intonazione social, perché è questo. Potenzialmente chiunque si può ritrovare sulle mura castellane di Foiano della Chiana e almeno per un lungo periodo e sapere di aver contribuito poi a un'iniziativa che non solo dà lustro al paese, ma raccoglie, come dicevo, anche delle opere d'arte. Un'altra cosa bellissima, secondo me, di questo, correggetemi se sbaglio, che dunque, questo striscione verrà esposto a giugno. Metà giugno. No, ultimi di novembre. Comunque, diciamo, all'inizio dell'estate. Esatto. E rimarrà fino alla fine di Foiano Fotografia, sì, quindi fino a novembre rimane apposta. E una volta terminato, che fine fa questo striscione? Ma che fine fa? Chi rivuole prendersi le loro foto, se le ripigliano tutte. È un affitto, non è una vendita. La cosa bella è che non è una vendita, ma è un affitto. Cioè, tu vieni esposto lì per 5 mesi e poi alla fine di tutto vieni, noi ti riconsegniamo la tua foto. Che dopo anche per noi tenere 180 metri a rotolare. No, ma poi anzi, per i più generosi sembra, correggetemi se sbaglio, che possano essere anche presi almeno un paio di mattoni delle mura castellane a ricordo di questa iniziativa. Stiamo lavorando anche per questo. Allora, su questa immensa buttata di Marcello ci fermiamo un attimo, poi continuiamo a fare domande su questa idea, perché è veramente affascinante. Adesso un brano, buon ascolto, dalle F Frequenze, dal I wish I was whirling dervish, shooting stars and cold white walls. Well, I want you to remember, jail's a hefty collect call. And all my friends are alcoholics, yeah, that's right, and I'm one too. So our souls are tumbling dice and all our babies are so blue. But I'm gonna send you postcards, post-apocalyptic love. Wrap your arms around my trigger, all my ammo's been shot off. That's the last time you'll see me flailing arms and shaking trees. That's the last time, I promise you, I've rid myself of thee. Ah, there's no comfort in black hell. Well, I'm running like a rooster, got my head between my knees. Seems my cock has got cut off from many men that are chasing me. Read a book or burn the Bible, tell your father he's your slave. Watch your best friend lay to rest and toss a flower on his grave. Kiss my girlfriend in the morning and again at half past noon. I'm so insecure it's frightening, but I promise you that's true. I'm the rat and you're the cheat. 2012 di Abigail con Black Heart. Bei tempi. Tra l'altro, fra un brano e l'altro, che ascoltiamo attentamente, ovviamente, perché Simone ci mette musica che a noi c'è garba. Abbiamo anche trovato già una foto, voglio comunicare a Marco e a Marcello, che abbiamo già trovato una foto che pubblicheremo sullo striscione. Che verrà censurata immantinente. Con Marcello. Non male, però, l'ho vista, non male. Oh, stiamo parlando con gli amici di Foiano Fotografia, di questo evento, che è Foiano Fotografia appunto, che sarà a novembre, Ma Enzo, io non so se poi avremo occasione, spero di sì, di pubblicare anche il leaflet che è stato prodotto un po' appena ideato. Fatto. Ecco, sei troppo il migliore, scusa se te lo dico. Dove io, diciamo, trovo una cosa messa in grassetto dove si dice promuovi la cultura con creatività. E questo è veramente un connubio che io non riesco a capirlo, onestamente. Cioè, però gli tornava bene come frase. Ecco, però si tratta effettivamente di questo, cioè il problema magari di finanziare, di sovvenzionare, di sostenere anche delle iniziative culturali che oggi, diciamo, con l'attuale situazione, necessitano di creatività anche per il recupero di fondi per poter essere sostenuti, altrimenti molte di queste attività non avrebbero sostentamento, non potrebbero essere organizzate. Esatto, cioè il passo che abbiamo fatto è proprio quello che hai descritto tu, nel senso che Foiano Fotografia è cultura, però promuoverlo con un finanziamento normale sarebbe stato molto più difficile, comunque forse anche proprio fuori dal nostro tempo, ora come ora. E quindi questa idea è per farlo in una maniera completamente alternativa, al passo con i tempi e che coinvolga le persone, perché l'idea di base è che devono essere coinvolte le persone del luogo, ma anche da fuori, per poi poter realizzare comunque un progetto culturale come Foiano Fotografia. Io stavo pensando che sarà poi veramente... Ma prima poi mi sono addormentato. Sì. Stavo pensando un attimo, un flash... E ho detto stavo pensando veramente quanto sarà bello fare la passeggiata intorno alle mura castellane. Insieme sarà... a Marcello, che ogni giorno. Ogni mattina giorno, andremo a camminare tutti insieme e ci illustrerà foto per foto. Perché sa già chi ha chiesto gli orari della sua camminata per non evitarlo. No. Marco, spiegaci meglio. Non tanto le modalità, abbiamo detto, passando tramite la vostra pagina Facebook, si riesce a capire bene come fare, ma quali sono gli step, cioè quali sono i quanti modi di contribuire? Modi di contribuire sono tantissimi, però quello che ci interessa più di tutti è quello di contribuire tramite le fotografie. Certo. Cioè, far esporre le persone in questo striscione. Ci sono vari modi di contribuire con una fotografia che costa 25 euro. Ricordiamo una fotografia di 70x50, quindi insomma... Tra l'altro su un tessuto, cioè scusatemi, su un prodotto... Che resistente, perché esatto, sarà 6 mesi fuori, certificato per restare fuori, una foto che durerà negli anni, eterna. No, 50x70 al primo piano anche dei difetti si vedono. Esatto, quindi bisogna stare scegliete bene le foto che avete a disposizione. Marcello, sono a 2,5 metri d'altezza e davanti c'è tutte le macchie. No, quello vuol dire che non le puoi strappare. No, perché i difetti lo vedi già a me. Quindi dicevi, però partiamo proprio dal primo step. La base per contribuire con le fotografie sono una fotografia a 25 euro, poi si va a pacchetti e quindi diminuiscono il prezzo per ogni fotografia, quindi con due fotografie a 45 euro, con quattro fotografie costano 80 euro, quindi 20 euro a fotografia. Poi abbiamo pensato anche a una cosa che sta funzionando tantissimo adesso, che è quello di riservare uno spazio per le associazioni o i fotoclub, dove si possono comprare un intero settore da 5 metri, con lo spazio per 14 fotografie, alla cifra di 300 euro. Quindi molto vantaggioso. Sì. Molto interessante, stanno partecipando in primo luogo tutti i cantieri di Foiano, ma anche i fotoclub dall'estero ci stanno inviando richieste perché, insomma, è piaciuta l'idea. Dall'Inghilterra una richiesta oggi, dalla Finlandia già acquistati. Io dico questo, io veramente vi chiedo questo perché a me è una delle prime cose che è venuta in mente, ma che voi conosciate, che voi sappiate, esistono altre cose, altre idee del genere in giro per il mondo, l'Italia, che voi sappiate, che siete a conoscenza? Ah, è stato difficile, cioè informarsi... Non lo so, io mi sono informato vedendo anche siti, quello che proponevano altri circoli fotografici, però ecco, un'idea così io non... qui bisogna stare attenti, Marcello, perché... Lanciare questo messaggio vuole anche dire che probabilmente, potenzialmente, potremmo essere protagonisti di una cosa unica. Di un record. Attenzione. Ossia, di un record, ma comunque qualcosa che possa essere riportato, ribaltato. Questo sicuramente, perché basta pensare che questo prodotto che noi offriamo, se te pensi che tutte le associazioni o privati in questo momento ci stanno chiedendo, vuol dire una cosa, no, piace tantissimo, che piace, cioè non tanto rivedersi lì nella foto, ma proprio proprio come idea generale di quello che si può fare. Tra l'altro le mura sono molto lunghe, quindi l'anno prossimo magari se funziona invece che 180 metri facciamo, cioè, a 360 basta gradi. Basta pensare, ecco, secondo me io ci vedo, prima cosa un aspetto culturale grosso e grandissimo, seconda cosa un aspetto turistico certo. eccezionale. Assolutamente. La terza cosa è che te in 180 metri, se tutte le associazioni rispondano, perlomeno la maggior parte, le più importanti, te fai vedere anche uno spaccato di vita di Foiano, cioè quello che succede a Foiano durante l'anno, perché il carnevale ci sarà, la zucca mi hanno detto che c'è, poi la mascherata ci sarà, il venerdì santo quindi... c'è, cioè te in 180 metri fai vedere... Insomma, la storia di Foiano, cosa che secondo altre cose non la può far vedere tutta insieme. Immagino, poi entreremo anche più nello specifico di Foiano Fotografia, quindi voi da appassionati fotografi, immagino ci sarà anche una gara per cercare di fare una foto unica a questo striscione, se fosse possibile, non so se tecnicamente... Se è possibile da un posto. Vedi che già hanno studiato. L'ha fatto. Pare che siano stati allertati i cosi. In orbita, quelli che sono nuovi. Satelliti in orbita, Hubble. Sì, esatto. D'altronde satellite per lui è una parola nuova, diciamo. Essendo rimasta al 12-13 del 1900, satellite è ancora una parola che non c'era. Oh, fino a che data c'è tempo per aderire tramite internet? Una domanda mica... Era rivolta alla trasmissione precedente, però non l'ho fatta venerdì, lo faccio adesso. Noi siamo online, siamo partiti lunedì e abbiamo tempo 40 giorni da lunedì, quindi il 13 maggio sarà l'ultimo giorno disponibile. Tra l'altro vogliamo spiegare come funziona, cioè voi dovete raccogliere quanti... che importo? L'importo minimo che dobbiamo raccogliere sono 7.000 euro. Però ora, cioè nel momento in cui stiamo parlando, siamo già arrivati a 1.445.500 in 5 giorni. In 5 giorni. Quindi direi, siamo partiti alla grande. Io direi, signori, affrettatevi. No, che signori. No, tra l'altro, perché tra l'altro questo sistema, il crowdfunding, direbbe che... prevede che se non si raggiunge la cifra i soldi vengono restituiti. Quindi per ora ci sono delle promesse. Sono promesse di... Non ci sono rischi, per chi scommette su di noi non ci sono rischi, nel senso che i soldi finiscono in fondo. Questo è bello. Non riscate proprio niente. Questa la possiamo dire a tutti gli interventi. Facciamogli veramente un primo piano perché ci mette la faccia, signori, su questa cosa. Tra l'altro lo stiamo facendo perché abbiamo anche il canale YouTube dove riandrà anche un po' a alcuni brani di questa puntata. Ringraziamo una signorina che sta riprendendo, non ricordo il nome, se vogliamo ricordalo te. Il nome di di battesimo Nova mi sembra che abbia partecipato all'ultima edizione di Miss Italia. Tra le prime tre... Valeria. Bellissimo, si riprendono, è fantastico. Simo, quanto abbiamo fatto? 7 minuti. Anche il telefono si è fatto un selfie in questo momento. Aspetta, voglio ricordare, tutti voglio ricordare niente. Bellissimo sarebbe vedere una serie di selfie. Ma lo farei. Queste ragazze di Foiano. Qui. Ecco, dopo allora facciamo così. L'età non conta su questo giocatore. Diamo degli spunti. Dopo il prossimo brano diamo degli spunti su come fotografarci. Tra l'altro io ho già un'idea, ma non mi ci metto io. Però una foto tua sì, immagino. No, ecco. Ce l'ho già. Ho il copyright, lo sai. È il copione. It's getting near dawn when lights close the tired eyes. I'll soon be with you, my love. Give you my dull surprise. I'm with you, my love. light shining through on you. Yes, I'm with you, my love. It's the morning, just we two. I'll stay with you, darling, now. I'll stay with you until my seas are dried up. I've been waiting so long. Chitarrata non mi è nuova, eh? È vero, The Cream, io praticamente capitanati da Eric Clapton con la nella suoneria della sveglia la mattina. Beh, era il 1967, che tra l'altro se inverti le ultime due cifre sarebbe il 1976. Ma lo sai, sto scoprendo che nel 76, soprattutto nella nostra zona, è stato un anno veramente fecondo per le iniziative. Tantissime. Ora non le voglio enumerare perché sarebbe troppo lungo, però Si vede che il 76 è stato proprio un foriero. Come potrebbe essere il 2016? Allora, intanto tutto per la cultura. Siamo a Piazza Alta, magari siamo a Radio F. Bravissimo, inizia il weekend di Radio F, sabato con programmi che ormai conoscete a memoria. Che la domenica sarà una domenica di calcio e non solo. Ma siamo qua in onda con i nostri ospiti Marco Sallese e Marcello Fatucchi a parlare di fotografia e della genialità di questa, per prepararci all'evento, perché sarà sicuramente un evento. Eravamo rimasti con una domanda in sospeso. Voi, immagino, anzi lo so per certo, siete di esperti di fotografia, e se no ci mancherebbe altro. Ecco, vogliamo chiedervi, abbiamo deciso di anche noi di partecipare a questa raccolta fondi, abbiamo da fare delle foto noi anche altri amici. Avete qualche idea, qualche cosa vorreste vedere esposto lungo le mura castellane di Foiano? Allora, posso dire quello che faremo. Domani chiameremo a raccolta un bel po' di gente e diremo di inondare gli studi di Radio F, di farsi un selfie di gruppo pazzesco su Radio F. Beh, Marco, sei già soldato, sei uno dei nostri. Adero, attenzione, signori, perché Marcello ha una domanda. No, non me lo intelligente. Dico, già me la so scusa. Allora, abbiamo detto che è partita questa campagna di raccolta donazioni attraverso il processo di crowdfunding. Diciamo che sicuramente andrà a buon fine. Nel momento in cui avrete, diciamo, questa somma minima per poter poi iniziare i lavori, quali saranno poi i passi successivi? Quanta gente e chi coinvolgerà? Primo passo sarà quello di stampare ed appendere questo striscione, che non è un gioco da ragazzi. Siamo ben organizzati, ma questo ci porterà via un bel po' di energia. Comunque, parte dei soldi finiranno lì dentro, ma stamperete giorno e notte. Esatto. Ecco, scusa, quindi siete tanti, diciamo, all'interno dell'organizzazione. Ricordiamo un po' di potete nomi, avere anche bisogno di una mano. Avremo bisogno di molte mani. Di molte mani. Mani e piedi, perché ci sarà da camminare e da montare questa struttura e questa fotografia. Quindi, sì, chiamiamo a raccolta quanti più hanno voglia di volontari possibile. Esatto. Ricordiamo un po' di nomi di persone che collaborano con voi, dal direttore dalla direttrice. La direttrice artistica ormai da 6 anni, 7, Chiara Giunitti Apro di Milano, giornalista come voi. Non vorrei sorprendessero i giornalisti. Ecco, sei troppo buono, ma questo era un colpo basso. Lei sicuramente sarà quella che proporrà le mostre con un confronto con noi, che proporrà il titolo e proporrà anche i fotografi. E dopo ci sono i soci del Photo Club, Valerio, che stasera non è potuto venire, però insomma diciamo è quello che sta lavorando attivamente con noi. Poi ci sono tantissime altre persone. 10 giorni fa si fece una riunione, chiamavo un po' raccolta tutti i vecchi, i giovani, sono una ventina di persone, vuol dire piace questa cosa, ma poi piace anche tutto il quello. Ti ha fatto una domanda prima, cosa faremo, e fatto faremo poi hanno fotografia, però c'è anche tante altre novità che sono sul piatto, si possono dire, no? Ad esempio quest'anno ci ricorre due date importanti. Una, 76, la nascita del Photo Club, come Radio F nacque nel 76. Vedi, diciamo, Foriero. Guarda, l'unico che pensa che io dico le sciocchezze sei tu. Sono io. E purtroppo hai ragione, perché mi conosci. E poi un'altra data molto importante per noi foranesi, perlomeno per me, che io ci sono molto attaccato, sono i 140 anni della nascita del Furia. Ah beh, allora... Che tra l'altro è stato ospite... Fuori del Furia proprio, lui, ma... perché con Marconi forse. Allora, queste due date noi le abbiamo messe insieme, abbiamo fatto una fusione, e cioè quando inaugureremo questa qui, che naturalmente noi andiamo avanti nel progetto con l'amministrazione comunale, certo. Perché l'amministrazione comunale va detto che in 16 anni di Foiano Fotografia è sempre stata al nostro fianco. L'amministrazione comunale farà una serie di foto di Furia del Furia, da dove lui ha fotografato 100 anni fa, le rimetteremo, le installeremo da dove lui ha fotografato. Bellissimo. Perciò, bellissimo. Perciò sarà questa qui, tutta all'esterno, lungo la cosa, all'interno, piazza della Collegiata, piazza alta, viale, la costruzione dell'agenzia di tabacco, che lui ha fotografato tutto. Collegiata, ci saranno queste installazioni, queste grandi foto del Furia a contorno di questa. Beh, questa è un'iniziativa bellissima, cioè quindi vedremo 100 anni dopo, esatto, come è cambiato lo stesso posto. Esatto, come è cambiato lo stesso posto. Questa è una grande bella idea. Cioè, questa qui è nel pacchetto. Poi un'altra cosa che sarà dentro il pacchetto, dentro questo contenitore, sarà senz'altro una giornata all'insegna del divertimento. Fotografiamoci tutti. Cioè, invitare fotografi di tutta la provincia d'Arezzo, chi non è fotografo, chi c'ha anche il telefonino, fotografiamoci tutti. Una giornata. Quindi iniziative che coinvolgeranno, non sarà solo una manifestazione passiva, anche, ma sarà del tutto attiva. Poi, oltre a questo, ora questo qui stiamo valutando anche con Marco, con Valerio, con gli altri. A me piacerebbe, dato che sono i 40 anni del Photo Club, fare anche una specie di fair play, come fanno a Castiglioni sullo sport, Okay. Vorrei farlo sulla fotografia, perché da Foiano sono passati grandi fotografi, molti anche vincitori di World Press Photo. Quindi diciamo a livelli internazionali quando uno vince World Press Photo è come l'Oscar del cinema, e a Foiano ci sono passati almeno 6 in questi anni. Perciò mi piaceva anche ricordarli, offrendo a loro un pensiero con una mattinata, una giornata di ricordo dei 40 anni del Photo Club, invitando questi fotografi, sono giornalisti. Certo. perché non abbiamo ricordato tra l'altro che appunto Fogliano Fotografia vede la sua prima edizione nel 2000, quindi si parla di una rassegna che ormai è 16 anni, sono tanti. Un appuntamento importante. Poi c'è una storia, 40 anni di fotoclub, insomma, esatto. credo siamo una delle associazioni un pochino più longeve. Più del... Quindi in pratica ci troveremo con un Fogliano, un come eravamo, esatto. come siamo e come vorremmo essere. Praticamente questa serie di iniziative che da giugno ci portano fino a Fogliano Fotografia, alla 17ª edizione. Beh, questo è interessante. E se non sbaglio, Marcello, è la prima volta che provate a fare una cosa del genere. Sì. Mentre prima si parlava, tra virgolette, solamente della mostra, che era una cosa importantissima. Sì, quest'anno mettete insieme queste due date, 40 anni, 140 anni del Furia, l'idea di questa crowdfunding, cioè dico proviamo a fare veramente, a far entrare anche chi non ama molto la fotografia, come si chiamava noi, insomma, di farlo entrare in quello che è la fotografia, il concetto, la voglia di far foto, perché se oggi si apre internet e Facebook sono tutte le foto, tutte le foto. Io infatti, tra l'altro, volevo chiedere una cosa. Intanto volevo confermare da non propriamente un amante della fotografia, proprio parlo dal punto di vista di farle, poi di vederle sì, che in realtà questa vostra iniziativa, come a me, ma sto vedendo che sta prendendo moltissimo, è una delle iniziative che veramente in pochissimi giorni sta raccogliendo consensi e curiosità, quindi vuol dire che avete centrato assolutamente l'obiettivo. Poi volevo chiedervi una cosa che forse, no anzi senza forse, esula, voi che siete dei fotografi, che quindi fate foto con macchine fotografiche, avete uno studio dietro, oltre che la passione, eccetera, come vedete, questa è una domandona, in questo momento in cui tutti siamo fotografi in realtà, cioè... con questo telefonino ormai facciamo tutte le foto, siamo diventati, ci immaginiamo di essere tutti dei bravi fotografi, andiamo sui social, postiamo qualunque cosa, dal mangiare tutti, agli animali, alla casa, a sono qui, sono ai pappagalli, al pappagallo, ai gatti, eccetera. Ecco, voi come vi ponete? È una domanda un po' più... Cioè, cosa ne pensi? Difficilina, come domanda, insomma. Non è facile. Sai, lui fa le domande scontate, io faccio quelle. Ah, ok. Avrei voluto farla io. Ma probabilmente non sarei arrivato in fondo. Che devo dire? Nel senso che stiamo vivendo un momento di cambiamento in tutto. Noi ci impegniamo a cambiare anche il Festival di Fotografia in questo modo. Giusto. La fotografia sta cambiando, cioè non possiamo andarci incontro, nel senso che è inutile scontrarsi con qualcosa che è già in movimento, quindi lo accettiamo, è così, e a me fa anche piacere che ci sia una cultura dell'immagine. Spesso appunto la qualità ne risente questa cosa, però nel livello professionale o comunque diciamo che ci sono alcune fotografie che sicuramente scattate anche oggi o ieri passeranno alla storia e rimarranno, sono sempre pochissime, quindi quello rimarrà, cioè la qualità rimarrà comunque, non c'è niente da fare. È il momento in cui diciamo i numeri ci spingono verso un po' l'abbassamento della qualità, c'è sempre e ci sarà secondo me sempre una porzione di nicchia che però resisterà al tempo. Marcello invece che ne pensa? Ma io penso che, sai, io vengo da una vecchia generazione dove c'era il rullino, che molti non sanno più nemmeno che cos'è. Esatto, dovevi sapere che era una pellicola, per la rasatura, com'era un obiettivo, il diaframma com'era. Perciò ogni giorno tutto imposti, tutto automatico. Cioè, come dice lui, c'è questo grosso cambiamento. L'immagine è sempre bella a vedersi, però insomma, io che vengo dall'antichità, dalla preistoria, dalla macchina fotografica, a me piace vedere quelle foto che, secondo il mio schema, la mia struttura, quelle che mi piacciono. Io ho fatto una col telefonino, se mi piace, certo. È bella. Però ecco, riconosco che parecchie, insomma, sono lì per dire tutto postata. C'è molta differenza per me tra uno che fa fotografia per divertirsi e uno che un pochino vuole imparare a far fotografia, perché poi si può imparare benissimo a fare le foto, basta leggere un po' di libri, andare a vedere un po' di mostre, insomma, come tutte le attività. Io tra l'altro ricordo, ora parlando, stiamo esulando un po', ma mi piace ricordarlo, siccome anch'io non sono proprio più un ragazzino, qualche anno fa, quando ancora esisteva solo la pellicola, l'ansia, l'eccitazione di andare a riprendere le foto sviluppate al negozio di fotografia, perché non sapevi quello che avevi fatto. Esatto. Oggi questo è completamente perso, davvero. E invece c'era proprio la voglia di andare a chiedere fra quanto me le sviluppi che le voglio vedere. Ora io mi metto a piangere per questo mio pensiero. Poi, tra l'altro, io col tuo zio, col tuo zio è stato uno con me per tantissimi anni, prima che è partito, si andava a fare i concorsi, si andava in giro, si andava a fotografare, ci si divertiva da morire. Vedi. E quando, cioè io credo le delusioni più grosse è quando andavi a ritirare il rotolino, che vedevi tutto nero, tutto bianco. O che è successo? Diventavi matto. Madonna, ho perso una giornata a fare le foto e poi guarda che risultato stroiale che avevo. Mi sono scordato di togliere il tappo davanti. No, no, a parte il tappo, una satura male, oppure... No, te, ma ti sarà successo anche a te col rotolino, no? Che ti pensavi di aver fatto capolavori, vai a aprire, troviai da buttare. Cioè, forse il bello era quello. Certo, oggi la guardo, mi piace, cancello e la rifaccio. Senti, ormai stiamo sforando, ma non importa. Te, Marco, hai qualche anno in meno di Marcello, no? Un pochi. Un paio. Quindi avrai iniziato non da tanti anni a avere questa passione, oppure come hai iniziato? Ti sei avvicinato alla fotografia... tramite il club oppure già per conto tuo? Ho iniziato tutto a Firenze perché studiavo lì, ho studiato architettura lì e c'è un laboratorio di fotografia dentro la facoltà di architettura che insegnava quello che diceva Marcello, nel senso c'è una camera oscura e tutto, quindi ho iniziato tutto maneggiando il materiale con cui è nato Marcello. Poi da lì in poi ho continuato un percorso personale, sono andato anche fuori d'Italia per studiare fotografia e ora sono tornato e... cioè, anche con piacere perché Marcello mi ha coinvolto in questo progetto, quindi certo. Vedo che si possa creare un po' di movimento anche qua. Posso fare un'altra domanda? Sono ispirato, Marci, mi perdono. Sono abbacinato da... L'ultima, giuro, poi dopo andiamo con un discorso. Il fotografo bravo fotografa ancora con la pellicola oppure digitale oppure non c'entra niente? Per me non c'entra assolutamente niente. Cioè, secondo me vale benissimo la fotografia con il telefono, che non ha assolutamente senso il mezzo quanto il contenuto. Ma penso per qualsiasi cosa, non è che sia fotografia. Cioè... Scusa se ho innalzato... Questa era già pronta, lo dico. Se mi permetti, volevo dire una cosa. Quando avete parlato del fatto che un po' tutti oggi si improvvisano fotografi, però la qualità, proprio anche se la massa... diciamo della normalità si è allargata tantissimo, una foto bella che trasmette emozioni, che ha un contenuto, spicca ancora di più forse nella normalità di tutto il resto. Bravo, guarda, e con questo io diciamo il mio testamento ideale che... mi saluto. No, volevo... allora, c'è una cosa, posso intervenire? Prego. O fare una musica? Ma è uguale, non a me, ieri l'altro lui mi passò un link di una fotografa tedesca. Io non l'avevo mai vista, no? Se non di passaggio velocemente, forse. Con due cavolate ha fatto delle foto che sono eccezionali per quindi me. La genialità sta nella nella creazione, nella creatività, la persona, la cultura, la creazione, capire le luci, l'ombre, comporre la composizione, una genialata quella. Pure, te pensi quando hai visto. A me mi è capitato tante volte. Io non ci ho mai pensato. Quelli sono quelli bravi. Ecco, perfetto. Allora, ora andiamo con un altro brano, Marci, ma ti voglio dire che nel 76, oltre al Fotoclub e a Radio F, è nato anche Simone. Quindi non tutto è venuto proprio bene. Questo volevo dire. Ah, ecco. I can still hear what you said. I don't Comic Rooster, Tomorrow Night. Pensa che sono nati da una costola dei Crazy World of Arthur Brown, caro il mio March. Penso. Ma te che ne sai? E questo è il 1970. Siamo arrivati alla fine, ma è una cosa... Io lo dico tutte le volte, ma siamo contenti tutte le volte di trovarci alla fine, perché vuol dire che abbiamo affrontato argomenti interessanti con persone interessanti. Qui l'unica pecca è Marcello, ma Marcello, fatevene una ragione che conduce, non Marcello Fantucci, ci mancherebbe. Ma si ritorna al discorso di prima, se non ci fossi io, meglio. Non si noterebbe la differenza. Allora, di che cosa abbiamo parlato? Perché siamo arrivati veramente in fondo. Abbiamo parlato di Foiano Fotografia, dell'appuntamento importante di quest'anno a novembre e della preparazione di Foiano Fotografia con un evento eccezionale finanziato in crowdfunding su un'iniziativa, su un'idea di Marcello Fatucchi insieme a Marco Sallese, che praticamente circonderanno le mura paesane con un mega striscione con le foto di chiunque voglia apparire in questa opera. E in questo modo finanzieranno Foiano Fotografia e questa probabilmente passeranno anche alla storia. Sì, perché lo striscione sarà di notevoli dimensioni e soprattutto racconteremo ai turisti, dico racconteremo perché anch'io parteciperò con una mia foto non personale, perché voglio bene a Foiano Fotografia, racconteremo un po' il paese di Foiano della Chiana e non solo, della Val di Chiana, la provincia, chiunque voglia partecipare. Marcello, ci sono già delle adesioni anche dall'estero per essere... Dalla Finlandia sicuramente e dall'Inghilterra mi ha scritto un fotografo che è interessato. Meraviglioso. E la somma minima da raggiungere è 7.000 euro, noi ci auguriamo che poi diventi ancora di più, perché no? Quindi noi cominciamo a fare l'appello adesso sia per la partecipazione e il fatto di voler sostenere questa iniziativa, per mandare le foto da poter poi pubblicare su questo striscione e poi l'appuntamento finale insieme ad altri prima di novembre a Foiano Fotografia. Esatto, noi quindi ringraziamo Marcello Fatucchi per essere stato qui con noi e per aver avuto questa splendida idea. Grazie Marcello. Io ringrazio Body Rapid UF, ringrazio Paolo che è stato gentilissimo ad ospitarci questa sera, ringrazio un pochino tutti, dico ragazzi diamoci tutti da fare perché a Foiano vogliamo bene tutti, certo. Insomma, più ci stiamo meglio è. Bene, grazie Marcello, ringraziamo anche Marco Sallese per essere stato con noi, ha fatto fare anche bella figura Marcello, le domande erano un po' così ma le risposte erano di un certo livello. È stato bravo, eri pronto, non ci siamo preparati. Ma ringraziamo anche tutte le altre persone che erano qui presenti, innanzitutto il nostro tecnico, ai noi. Simone. Ciao Simone. Ciao. E ringraziamo anche la nostra videomaker della serata, Valeria. Ciao. E tutti i beep beep che abbiamo sentito di... Sono colpa di Alfredo Redi. Chi ha fotografato questa sera con noi. E ringraziamo anche Paolo che dall'altra parte del vetro ci saluta. Allora, abbiamo finito. Vuoi dare un appuntamento? Sì, a venerdì prossimo, Enzo. A venerdì prossimo. Questa è Radio F, questo che fa questo rumorino è il solito megafono che si prepara per la sigla finale. Buon ascolto. Dalle F frequenze. Dal 1976. Avete ascoltato Piazza Alta, un programma di e con Enzo e Marcello. Alla parte tecnica Simone. Une. E in studio c'erano tanti altri. Altri.